Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone, One. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi amici ascoltatori di Piazza Alta, questa è Radio F. Sì. Buonasera a tutti. No, avete passato una splendida settimana? Ciao, certo. Simpatici amici. No, perché guardavo Marsi che praticamente dormiva. Ah, no, stavo pensando alla tua entrata solita di Simone One. E stavo pensando a come poteva chiamarsi. Vabbè, sigla. Allora possiamo andare avanti? Il programma lo abbiamo già detto, sì. Piazza Alta, 14ª puntata, 27 febbraio, andiamo con il primo brano. Ogni sera meglio. Forma e Sostanza, questo il primo brano di questa 14ª puntata di Piazza Alta. Loro erano il Consorzio Suonatori Indipendenti ed è un brano che viene dal 1997. Ma poi dopo questo disco qua proprio tutto è stato annientato tutto. In sostanza parla un po' di me, Forma e Sostanza. Sì, ti piacerebbe. Della forma possiamo parlarne. Poi della sostanza ho qualche dubbio. Sai che la forma arrotondata, la forma sferica è quella perfetta, non so. Sì, vabbè, la sfera sì. Io tendo alla perfezione. Te tendi alla perfezione, poi a volte la passi oltre, andando oltre. Okay. Ma che bello, eh? E allora andiamo. Allora, intanto i nostri ascoltatori sono sintonizzati su Radio F. Bravi. Sulla frequenza 101.2. Oppure in streaming su www.radiof.it. Oppure scaricando l'applicazione gratuita per Apple o Android Radio F. E lì ci possono ascoltare. Ma se puta caso vogliono interagire con noi, possono farlo attraverso la nostra pagina Facebook. Brava, Piazza Alta. Li abbiamo già salutati? No, ancora nessuno. Perché non ho acceso ancora. Non l'hai fatto partire. Sara, ti ringrazio per questo intervento intelligente. Pare che anche Zuckerberg Zuckerberg ti abbia mandato un ringraziamento per appositamente. Sì, per beh, c'è chi apprezza e chi no, del resto. Ma attenzione. Sì, uscito fuori con le mani alzate. E però dobbiamo ricordare che ammettiamo che stasera tu non possa ascoltare questa trasmissione, caro il mio Marzi. Non ho problemi. Perché non hai problemi? Sono tranquillo, l'ansia scema in me. Perché domattina presto, chiaramente, ma non il nostro tecnico Simone metterà a disposizione per ogni dove, per chiunque un bel podcast. E sulla pagina Piazza Alta potrete ascoltarci. Intanto, sollecitato da Sara, posso dire che salutiamo una Sara, tua omonima. Spero che non sia tu che ci saluti direttamente sulla pagina. No, non e sono anche io, delle, è un'altra delle Sara. Delle new entry, perché nell'ultima settimana altri amici si sono uniti alla nostra pagina. E per questo non sapete quanto vi siamo grati. Manola, Flora, Anna Maria, Federica. Tra l'altro vorrei far notare, tutte donne, Marzi, tutte donne. Ci sarà. Ma che gli farai alle donne? No, te lo dico io perché. Perché è radio. Perché se era televisione non ce n'era nemmeno una. Altrimenti le potevo pagare. A quanti pagare, mi piace siamo? Brava, fammele queste domande senza prepararsi. Senza avertelo detto prima. 261, 261 mi piace. Un numero topico. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso i 300. E perché stasera, Enzo? Perché a Foiano succede sempre cose importanti. Quando? Il giovedì. Ma quando? Da 1976 su Radio F. Ma bravo, tutto il repertorio. Allora aspetta, no, lo faccio dopo. Ma adesso, oddio, scusate, Sara ci dirà perché siamo qua stasera. Di che cosa parliamo? Intanto oggi è il giovedì grasso, ultimo giovedì di carnevale, quindi noi siamo perfettamente in tema. Trenini. Da qui a martedì, Da qui a martedì e noi continuiamo a parlare di carnevale. Quanto ci piace il carnevale. Guarda, vorremmo che il carnevale a Foiano durasse tutto l'anno. E comunque un paio di mesi ufficialmente. Prego, Sara. E continuiamo a farlo con gli ospiti. Abbiamo un ospite in studio. Momento accoglienza. No, però, allora fai ancora. Tutto te. E poi ancora non è il se momento. Non sei preparato. Non è ancora il momento accoglienza. Ancora non presentiamo il nostro ospite. Diciamo che è già con noi. Un mito del paese. Sì. Parliamo dei testamenti che rendono unico la nostra manifestazione. Non più tardi di oggi, all'ora di pranzo, ne parlavo appunto con Umberto Eco. E via. E anche i discendenti di Ungaretti e qui altri. Io direi che per il momento abbiamo soddisfatto un po' tutti adesso. Sì, l'argomento l'abbiamo detto, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati con noi e andiamo con il secondo brano. We can love. from home, my Lord. Longing for home, my Lord. Prima novità di questa settimana che ci ha proposto il nostro Simone, il brano è The Rambler di una band romana che si chiama Dead Shrimp, e li salutiamo. Il loro disco d'esordio è uscito da poco, nel 2013. Secondo me, poi, siccome ci sono dei chiari riferimenti al Mississippi, no? Probabilmente loro sulle rive del Tevere si sono immaginati di fare. Io mi sembra. Dinne una te ora, Marzi. Ecco, questo è un fuori onda, venuto male. Io ho trovato anche un Hendrix. Sì, ma non Jimmy, Rudolf Hendrix. Meraviglioso. Facciamo parlare chi sa parlare. Vai. E soprattutto di su, che cosa? Sentiamo che ci dice, su Sara. Grazie, allora, Sara, no, per questa visto domanda. Visto che sai parlare tanto bene, vai, fatti la domanda e datti la risposta da solo. Io allora ti ringrazio, Sara, per questa cosa. Per questo, come si chiama quando si dice questa spalla? No, quando. Ma non lo so, è uguale. Beh, intanto salutiamo il nostro ospite che è arrivato questa sera e che con cui parleremo dei testamenti, Brunero Falchi. Buonasera, Brunero. Buonasera, cittadini foianesi, dal 46. Addirittura, ma. Dal 1946. E diciamo che dobbiamo iniziare a parlare appunto un po' di quella che è la storia del. Dei testamenti, esatto. Iniziamo allora a introdurre l'argomento. Intanto chiediamo a Brunero di avere ancora un attimo di pazienza, perché appunto adesso Enzino e Marci ci parleranno dei testamenti di Reggio Condo. I testamenti di Reggio Condo vengono, intanto, quando vengono letti? Vengono letti l'ultima domenica di Carnevale, in attesa della lettura del verdetto, dove si sancisce il vincitore della gara fra carri. E appunto, prima di questo verdetto, il re Giocondo, che sta per essere cremato e quindi che va a morire, di fronte a tutta la popolazione lascia il suo recita i suoi lasciti. E che cosa fa? Viene raccontato in rima i fatti più o meno positivi che hanno caratterizzato la vita del paese e dei suoi residenti, avvenuti durante l'anno appena trascorso. La lettura del testamento è quindi l'occasione per mettere alla berlina tutte le malefatte, diciamo, e le disavventure della popolazione, che non mancando tra l'altro poi di elargire goliardici consigli appunto ai tra virgolette malcapitati. Il primo testamento di Reggio Condo pare che risalga al 1930, quando ancora ufficialmente non c'erano i carri del carnevale, almeno in forma ufficiale appunto, e fu scritto come gran parte dei primissimi testamenti, e così come riporta tra l'altro il professor Solaro Solaro Corsi nel volume Ed ora a rogo, da tale Palmerini. Di seguito, infatti, adesso ora Marcello Marzi Nostro riporterà parte dell'introduzione proprio di Ora a Rogo, scritta a quattro mani dall'allora presidente dell'associazione Carnevale, il professor Solaro Corsi, appunto, e il vicepresidente e suo compagno Elviso Roggi. Ci dicevano infatti i due: quando l'assessorato alla cultura propose la pubblicazione dei testamenti, accettammo di buon grado di collaborare, mettendo a disposizione tutto il materiale in nostro possesso, sia la produzione del Palmerini sia la nostra. Pensammo subito che fosse opportuno e doveroso iniziare la pubblicazione, inserendo prima di tutto i testamenti di colui che fu l'ideatore di tali simpatiche composizioni. Ad esse potevano essere aggiunti i testi che iniziammo a comporre a partire dal 1962, alla ripresa dei corsi carnevaleschi per alcuni anni interrotti, e che sono ispirati alla composizione del caro Palmerini. Il professor Solaro prosegue spiegando come meglio non si potrebbe l'essenza stessa di cosa siano i testamenti. I testamenti di Reggio Condo, caro Enzo, cara Sara, caro Brunero, non hanno certamente pretese letterarie, ma rappresentano tuttavia una sorta di lungometraggio su alcuni aspetti della vita della nostra comunità nello scorrere del tempo e nel mutare del costume, che nell'accanito mantenimento di una tradizione finiscono col divenire patrimonio culturale. Dopo queste parole è doveroso un ricordo proprio di quella che è stata per tantissimi anni la voce del testamento del Carnevale di Foiano, e cioè Solaro Corsi, che fin dagli anni 60 li ha letti puntualmente ogni anno di fronte alla piazza sempre stracolma di foianesi e non. Esatto, e per finire vi vorrei dire che il professor Solaro Corsi, dopo aver lasciato il ruolo, il doppio ruolo di lettore e autore dei testamenti, è stato egregiamente sostituito nella lettura dal dottor Reali, che tuttora li legge, e nella scrittura prima da Marcello Ceccherini, ma meglio conosciuto come Al Secolo Ossino, e adesso dall'attuale autore Fabio Tiezzi. E direi che con questo abbiamo fatto un po' il riassunto di tutto e siamo pronti fra un po' a parlare con Brunero, che ci racconterà in quanto vittima molti fatti dei testamenti. Assassino, e poi quel trucco invadente, è difficile da noi in periferia, qui la gente non capisce, fa la spia, più discreta, più eccitante la città, puoi fare una pazzia. Paolo, Paolo, pa, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai? questo era il brano Paolo Maledetto del Banco del Mutuo Soccorso, che insieme alla PFM, le Orme e gli Area sono stati l'esempio più rappresentativo e credibile del rock progressivo italiano. Questo è stato anche il modo per ricordare a pochi giorni dalla scomparsa Francesco Di Giacomo, che è stata la voce storica proprio del Banco del Mutuo Soccorso, e quindi questo brano che abbiamo fatto sentire è l'omaggio di Piazzalta a Francesco Di Giacomo. Oh, e adesso veniamo al nostro ospite, un vero e proprio mito, per, almeno per me. Ma anche per me. Almeno per me, Brunero Falchi. Ciao Brunero. Buonasera a tutti, amici carissimi. Dimmi la verità, avresti mai pensato di parlare in radio? Dalla vigna. Dalla vigna al microfono. Al microfono. Ah, vedi, ma io ve l'avevo detto, è una certezza, Brunero è una certezza. Perché Brunero è qui con noi stasera? Perché parliamo dei testamenti del Carnevale di Foiano e Brunero più volte è stato protagonista. Si pregia di essere. Hai voglia di essere stato protagonista. Allora, è foianese da sempre. Dici qualcosa di te intanto, dai. Io? Io sì. Sono Falchi Brunero, nato a Foiano della Chiana il 27 ottobre 46, sicché sono vecchiotto. No. Non è vero. Ma dove stai di preciso? Dicelo. Via di Lucignano a Spuntone. Se mi domandate qual è stato il giorno più bello della tua vita, non dirò certo quando mi sono sposato, non dirò certo quando le cose. Dirò quando nel 1967 sono entrato in una casa che aveva la luce, perché prima mi toccava andare a letto alle 7 la mattina, perché alla sera perché era senza luce, quando finiva la candela e ci toccava andare a letto. Sicché pensate che tristezza la mia infanzia, la mia adolescenza che è stata. Però dopo ti sei divertito. Come? Dopo mi sono rifatto. Quando sono tornato in un posto che c'avevo la luce, l'ho messa anche per campi la luce. Ma ora mi è venuta una curiosità sentendo Brunero. È arrivata prima l'elettricità o l'acqua? È arrivata prima l'acqua sicuramente, ecco. Ma anche proprio ma dal non cielo. È detto. Ma anche dal cielo, dal cielo. Detto, E basta. Oh, ascolta, diciamo che vogliamo dirlo, quest'anno sei anche protagonista assoluto della mascherata del cantiere di Bombolo, anche se non siamo qui a parlare di Bombolo, siamo tutti neutrali, parliamo del carnevale. E io, dopo questa grazia che il Signore mi ha dato, anche se quando è finito il coso, che si vincesse puta caso, se vincesse la mascherata, anche se il giorno dopo se faccio i pressi, non me ne frega niente, perché da quanto so contento, ormai tanto so campato là. Dopo lo traduco. La mia parte. Questa è la passione per il cantiere che si sente benissimo. Sì, molto grossa, molto grossa. Allora, però dicevo, Brunero è anche stato molte volte vittima proprio del testamento di Foiano. Perché, spiegamolo meglio, Reggio Condo, quando va a essere cremato, prima di essere cremato lascia un testamento ai cittadini. Come dicevamo certo. Chi ha fatto delle bischerate più o meno simpatiche durante l'anno, allora Reggio Condo che fa? Le racconta davanti a tutta la piazza cremita di 4-5 mila persone e poi gli dice anche qual è il lascito per risolvere la situazione. Ad esempio, Brunero, la prima che hai avuto, diciamo, la prima volta che sei stato menzionato nel testamento a Foiano, te lo ricordi? La prima volta fu la cavolata, io capirai, in campagna la sera, che la televisione non mi piace, i film non mi piacciono, che faccio? Stavo nel pollaio a guardare, io come faccio, come un faccio? Facciamo un tapirulan per i polli. E che consisteva, Brunero? Come consisteva? Un tronco d'albero di circa un metro di diametro, sì, con una rotella tutto bucato in modo che ci potesse aggrappare cocosi. Mettevo il mangiare alla parte di là, questi polli dovevano andare a cercare il mangiare, no? Io gli giravo a morte da più là e cosa? Pio, ma al mangiare non ci arrivava mai. Fino a mezzanotte, a sfinimento, che poi i polli non cascano in terra dal sonno. Questo, guarda, che per oggi si danno gli ormoni e si fanno degli allevamenti particolari, ma le cosce dei polli di Brunero sul tapirulan erano famose non si scappavano dall'osso, fa conto, ma erano dure come buonissime, proprio erano toniche, sì. Ci credo, non ci come credo. Quelle comprate da cui è nato le coq sportif, il galletto sportivo l'ha allenato sul tapirulan Brunero, grandissimo. Però non ce ne dire altre per ora, perché secondo me ce n'ha ancora tante, un pochino per volta, ce ne teniamo per dopo. Vediamo per la puntata. Allora andiamo avanti in attesa delle prossime di Brunero. Carlo Barbagallo, uno dei più apprezzati cantautori della nuova scena musicale italiana. Il brano che abbiamo appena ascoltato, intanto vi dico il titolo, che è Rainbow, pensate, vi dico una chicca: il video è stato girato da Simone e all'aiuto alla regia c'era Enzino. No, io facevo l'attrezzista, io facevo l'attrezzista, solo la regia, è troppo per me. Enzino, dove è stato girato il video? Tanto per cambiare, nel cantiere di Bombolo. Alla fine qualcuno ci picchierà, ma non importa. No, beh, è stato bellissimo, è stata un'esperienza bellissima. Tanto fumo, ma nel senso quello proprio. No. Perché avete dato fuoco? No, gli effetti quelli. Come si chiama? Con la macchina del fumo, Simone, di qualcosa. Sì, era la macchina del fumo. Bravo, così mi piace. Quattro sillabe, ha detto. Sono quattro parole. Era la macchina del fumo, cinque. Per contrattualmente questo siamo già fuori quota. Fuori quota. Bello, fu un'esperienza bellissima. Con effetti speciali. Ovviamente. E allora, dicevamo, video girato nel cantiere Bombolo, e questo ci permette di ritornare all'argomento di stasera. Siamo sempre in tema carnevale, abbiamo con noi Brunero che ci ha raccontato... Ari, buonasera a tutti. Adoro quest'uomo, io l'adoro. Ci ha raccontato un aneddoto legato a uno dei testamenti, però che facciamo? Raccontiamo anche qualche altra particolarità? Sono pronto, sì. Prima di passare di nuovo la parola, perché Brunero ne ha veramente tante, cioè è abbonato ai testamenti. A voglia te. Però ce ne sono anche tantissime altre, capite che dal 1930 di testamenti se ne sono stati fatti tantissimi, e tra l'altro i cittadini foianesi ne hanno fatte di cotte e di crude. La prima che mi viene in mente, forse la più importante, più famosa, non importante, la più famosa è quella di una signora, ovviamente stasera non faremo nomi, dopo anche Marzi racconterà qualche altro episodio, ma tranne quelle di Brunero non diciamo mai protagonisti, è una signora che aveva comprato da poco una delle macchine da cucire, quelle elettriche, e era entusiasta, l'ha portata a casa, ha iniziato a cucire, ma questa macchina un po' andava e un po' si fermava, un po' andava e un po' si fermava, quindi ha richiamato il tecnico che gliel'ha venduta, che non riusciva a capire qual era il problema, perché era tutto a posto. posto, sono venuti dall'azienda costruttrice, non riuscivano a capire, fino a che un tecnico si è accorto che anziché aver messo una riduzione normale alla spina, alla presa, aveva messo l'intermittenza dell'albero di Natale, e quindi questa macchina andava e si fermava. È vero, Brunello, te mi confermi? Sì, lui oltre a finirci dentro si ricorda. Ma anche. È anche vero che in quel periodo il costo della bolletta si era praticamente dimezzato. Precisamente dimezzato. Anche le cuciture ci metteva un po' di più a cucire. No, tra l'altro volevo dire una cosa, Enzo, che questa cosa del testamento per i foianesi può sembrare quasi una messa alla berlina. In realtà ci sono... diciamo nel nostro profondo l'essere protagonisti in questa occasione che precede proprio il momento topico della fine del carnevale è un elemento in fondo di vanto, assolutamente. E noi, quindi non sempre vabbè, allora, dipende perché anche ti posso dire che ho provato sulla mia pelle, sì. gente giovane magari lo capisce, ma la gente della mia età, quando Falchi Brunero, Falchi ha fatto questo, Falchi ha fatto quest'altro, alla fine, ma Falchi, ma sei proprio uno stupido quando. O come mai ti mettono sempre nel testamento? Cioè, non capendo la situazione, sì. Il fatto ironico di questa cosa, penso che. Io invece, quando Orsino, siccome si andava a scuola insieme, Falchi, no, un ciò che medici, trovimi qualcosa. E io cercavo, perché io ne faccio un vanto di queste cose, mentre giusto. Altri dicono, però Brunello, dicono ti dico anche una cosa denigrante. Che siccome questi testamenti sono raccolti e vengono tramandati, ci sono anche delle pubblicazioni, io sono andato a ricercare indietro nel tempo e soltanto uno dei miei nonni è comparso in tempi veramente remoti sul testamento del carnevale, e ti dico la verità, seppur l'episodio non fosse granché niente di speciale, però mi ha fatto anche un po' piacere perché ho ritrovato una traccia di un familiare a distanza di decenni. Certo. E quindi il mio nipote allora fra 30 anni, 40 anni sarà orgogliosissimo. Quello stupido del mio nonno, guarda che lavori che faceva. No, allora ce lo racconti dopo un altro episodio, perché per ora vai benissimo così, guarda. Stop, titolo breve di questo brano e nome lungo del gruppo Black Rebel Motorcycle Club, che è un trio alternative rock di San Francisco. 49ers, no scusa, questi non sono i San Francisco 49ers, fanno un'altra cosa. Oh, allora, continuiamo a raccontare con Brunero, anzi no, continuiamo, prima di Brunero forse qualche altro aneddoto, se no scusa, vado via, dai, ciao. Innanzitutto, come al mio solito, aneddoto, vorrei salutare un uomo, certo, Sauro. Esatto. Se poi tu vuoi salutare qualche donna, come sì, tuo solito, prova a indovinare chi voglio salutare. Io ti suggerisco. Sì, prova. Edi, salutiamo Edi. Ciao Edi, poi salutaremo anche altre persone, che adesso mi si è completamente spento il computer, quindi non lo so, però tutte quelle che ci provvederemo. Ascoltano. No, io sentendo, ascoltando Brunero, mi è venuta in mente anche un aneddoto che è abbastanza recente, che è messo con grande successo, stato messo con grande successo anche sul testamento del Carnevale, e narra di una nostra giovane concittadina che a un certo punto ha cominciato a lamentare un forte calo della vista. Sì. Preoccupata, si è recata dal professionista, dall'oculista, che gli ha fatto di tutto punto un'approfondita visita oculistica, ma risultava tutto a posto. A un certo punto, come non fu, andiamo a scandagliare dov'è che trovava le maggiori difficoltà, diciamo, nell'avere una visuale regolare. Queste sono tutte, in realtà, vere, sono tutte vere. Esatto, in realtà era proprio alla guida della sua autovettura che non riusciva a vedere più limpidamente. Viene fuori che questa sua paura di aver perso tanti gradi sulla vista era dovuta soltanto al parabrezza, che era che veramente era sporco. Quindi è bastato un passaggio sui rulli, 6 euro di lavaggio, avrebbe risparmiato 300 euro di oculista. Esatto, e più l'ansia di aver perso un po' di vista. Ma meglio ha fatto Brunero, sicuramente. Sì, è meglio ha fatto Brunero. Di che si parla? Che si parla? Dici un altro. Un altro. Quando il cane mi mangiò l'ova. Sì. Allora, volete sapere che io, essendo nato prestino, l'ovo per me era un alimento importante. E quando c'era lo mangiavo volentieri, perché era la bistecca degli anni 50-60. Certo. Sicché la mattina, essendo in pensione, io la prima cosa che faccio, vado quando mi ammazzo, vado giù nel cortile sopra la polli a vedere l'ova, a contare l'ova, come dicevano. Per vedere quanti ce ne sono. A vedere quanti ce ne sono. Se non che 7-8 anni fa, la mattina andavo a cercare l'ova. L'ova non c'erano. Un giorno, due giorni, tre giorni, come mai? Come non fu, sarà quello, sarà le galline saranno. Sicché andai dove vendono i prodotti, i mangimi, insomma, come mai? Dice, dagli le vitamine, dagli qui, dagli là, proteine, vitamine, tutti cose. Polli alti 2 metri, ma ova. Polli alti 2 metri, ma l'ova, niente da fare. Anche il cane pare che in quel periodo. E come mai la moglie, come mai stira quella linea, non fanno più l'ova, come mai fanno più l'ova? Se non che una mattina, essendo andato nel pollaio in un'ora che diversa dal coso, vedo scappare il cane tutto pimpante, che scodinzolava con una bocca sporca d'ovo che colava giù per baffi. Che te venga un accidente a te, gli hai detto tu pedate, e poi gli dici che tu la ricacasse. Proprio parlando la cosa. Certo, giustamente. Certo. Pare comunque che il pelo morbido e lucido, come di quel periodo, il cane non l'abbia mai più avuto. Sì, il pelo lucido. Però ci fu un però. Sì. Dopo un par di mesi, sto cane non mangiava più niente. Non mangiava più, come mai quel cane non mangia più niente, come mai mangia più niente. Lo porto l'animale, voglio bene, lo porto dal melai, dal veterinario. Dice, oh, che ha mangiato fatti questo? Dico, che ha mangiato tutte le cose? Dice, ma mica per caso gli ha dato l'ovo? No, ognuno l'ho dato, l'ha mangiato. Apposta, dice, porra bestia. Gli hanno fatto tappo lì. Sicché praticamente a quel punto mi sentii in colpa, che gli dissi, gli avevo detto che tu la ricacassi. No. Successe proprio in quel modo. Grande Brunero, grande. Capirai quando lo sei persino, tappete. Testamento meritato. Moon. Questo è il singolo dell'artista Beck, che ha anticipato il suo ultimo album, che è uscito da pochissimi giorni, il 24 febbraio scorso, e il disco si chiama Morning Face. Cioè escono e si mettono, noi che si aspetta tanto, ci stiamo organizzando per metterli prima che escano. Sì, sì. Si telefona, fatecelo per telefono. È possibile che Simone riesca a fare a passarli anche in questo modo. Addirittura quelli che vanno a Sanremo non si sanno già a memoria. Vedi, ormai Brunello fa parte del programma al 100%. Quest'anno chi ha vinto? La Marisa. La Marisa. Controvento. Controvento. È vero. Devo cantare, Brunello. No, scherzo. Allora, mentre Brunero si sta concentrando appunto sulla lettura di un qualcosa che poi ci farà sentire, ragazzi, che dite? Raccontiamo ancora una storiella, un aneddoto? Sì. Un'altra che ormai è passata alla storia ed che non è successa molti anni fa, anzi pochi anni fa, riguarda una coppia di anziani che erano a fare una visita all'attuale, anzi all'ex ospedale, non so Marzi, te sai meglio che cos'è, in un ambulatorio dell'ex ospedale di Foiano, e avevano la loro bella panda bianca. Finita la visita sono usciti fuori, sono saliti sulla panda e sono tornati a casa in tutta tranquillità. Scesi dalla macchina, però, la moglie, richiudendo lo sportello, gli ha detto al marito: ammettiamo si chiamasse Gosto, non si chiama Gosto, ma faccio per dare un po' di colore. Gosto, ma l'hai visto che t'hanno scarabocchiato tutta la fiancata? Lui richiudendo dice: porca miseria, ma anche di qua me l'hanno sporcata. Il problema era che anziché aver preso la propria panda, hanno preso quella della USL che era accanto e se la son di colore uguale bianca, e se la son portata a casa. E con le chiavi dentro. E con le chiavi dentro. Questo infatti questa è la dice lui. Esatto. E questo è un altro degli episodi che è rimasto e che rimane tuttora fra i più Quindi belli. Se qualcuno avesse bisogno anche di un passaggio, di un la USL, cioè, senza conducente, questo ovviamente caso. Però la USL è a disposizione dei mezzi. Finiscono, perché se ognuno se lo porta a casa, però. No, ma loro l'hanno riportato. Sì, però, questo eh? È vero, questo è vero. La posto di un testamento che non è successo a me, ma allora spieghiamolo. È successo a altre persone. Porca miseria. Di quello che, essendo il giorno dopo, essendo vigilia, aveva comprato il pesce. Solo che invece di essere 4-5 persone, come era il coso, il figliolo aveva invitato diverse persone a casa. E sta di fatto che il pesce non bastava più. Ah, come si fa? La moglie dice: ma senti che si fa? Se ripiena. Allora dentro a quel pesce, magro di vitella, magro di maiale, magro delle cose. Salsicce, racconta la leggenda. E tutto ricosa, però dopo quando andavano a mangiare, non so se la era vigilia era tanto gustosa, la vigilia la l'hanno fatta. La vigilia però non so se è saltata, per quell'anno lì è saltata. È saltata, sì. Sì. Ma te Brunero, però, siccome sei sempre stato vittima dei testamenti, un anno ti sei rifatto. Un anno mi sono rifatto, durante la cena sociale di Bombolo. Oh, Marcello, stavolta ti voglio fregare, come si dice a Foiano. E mi sono preso la bega di fargli una stornellata, insomma, ecco. Cioè, quattro righe scritte così da... No, ma l'hai scritte bene, io mi ricordo. Io volevo anche sottolineare una cosa, Enzo, che da un punto di vista letterario non saranno quel granché, ma sono in realtà tutte in rima. Sì, sono quartine. Sono quartine da 11 sillabe. Che voglio dire, tutte le volte per farle ritornare non in è rima semplice. Non è proprio non è così semplice. Anzi, bisogna essere bravi. Che poi la stessa cosa, io lo dico da profano, la stessa cosa, lo stesso discorso fatto in prosa e fatto in poesia risulta migliore del 200%. Certo. Bravo. Leggici un po' quello che hai cantato. Ricapitoliamo. Te eri sempre stato vittima di Ossino, l'autore dei testi, e un anno ti sei rifatto. Che tutti mi dicevano: Falchi, ma insomma, sempre te in questo testamento. Ma perché? Allora, Marcello, dico: facciamogli uno scherzetto. Io gli ho scritto queste quattro righe, insomma, sempre in rima. Vai. Bisognerebbe fare un monumento a colui che da anni compila il testamento, il grande boss di tante rimate che ci fa fare un sacco di risate. Con grande sgarbo Marcello Ceccherini prende in giro ignari cittadini. Non puoi permettere di fare una cazzata, scusatela, ma è poesia. Che la notizia è senz'altro trapelata. Io ve lo dico, ad essere buoni in questi casi ti girano i coglioni. Sempre poesia. Sempre per la rima. Sempre se mettetevi nei miei panni, mi ha nominato 3 volte in 5 anni. E dopo questa rimata io gli ho consegnato la coppa con il suo scritto Marcello Ceccherini, il trilussa di Foiano. È vero, che è lui mi ha detto la signora che la tiene gelosamente, cioè lui non più, ma insomma la signora la tiene gelosamente custodita lì in casa, insomma, come un vanto. È vero, è vero. Anche perché purtroppo Marcello, che era un amico, è venuto a mancare qualche anno fa. Tra l'altro, Brunero ci è cresciuto insieme. Si andava a scuola insieme, esatto, con Marcello, esatto. Perché, e quindi facciamo un saluto, e anche a Enza, che è la signora di Marcello. Signora è cosa, esatto. Sì. Bene, noi siamo quasi arrivati alla fine. Ora facciamo un altro brano? Sì, dai, e poi dopo facciamo i saluti. Simone, sei d'accordo? Gruppo Noto. Sì. E allora andiamo. Walking down. E abbiamo chiuso, direi, in bellezza con i REM e il loro brano Crash with Eyeliner, un brano del 1994. Pensa, dallo. Già all'epoca c'erano questi poi dopo hanno continuato. Bravi. Pensa che io intanto chiedo scusa ogni tanto per qualche colpo di tosse, sono gli ultimi aneliti, poi vi saluto per sempre. la salute è cagionevole e è finita la puntata. Infatti, cioè passano. È volata. Forse Gioconda sta preparando il testamento anche per te. Beh, grazie. Che potrebbe lasciarti Enzo quest'anno? Ma allora ora lo dico, ora che è finita la puntata. Anche una volta sono finito nel testamento, ecco. Ma non lo dirò ormai pubblicamente. Ah, ora ce lo dici? Certo, ho aspettato però la fine. Adesso ci devi dire. Te lo perché dico giovedì prossimo. Ma noi te lo chiediamo. Faremo una ricerca storica e documentale dell'episodio. Ma a proposito di chi finisce nel testamento, salutiamo il nostro eroe della serata, il nostro Brunero. Buonasera a tutti. E questa data, il 27/2/2014, la terrò impressa come il 25 d'agosto del 74 quando mi sposai, il giorno quando tra i ricordi piacevoli, piacevolissimi. Allora da domani, caro Brunero, pensate che io che di fronte a tutti questi macchinari, le cuffie alle orecchie, la musica, tutti sì, ok. Una serie delle cose. Comunque, mi sembra di essere un pesce fuor d'acqua. No, ci stai benissimo. Quindi proprio... Grazie a tutti, grazie, mi avete fatto un piacere immenso. E da domani, Brunero, ti puoi riascoltare su Facebook. Vai su Piazzalta e troverai il podcast e ti puoi risentire tutta la puntata e tutte le cose che hai detto. Perfetto, vai. Tanto Facebook è il mio pane, il mio barre. Sicché praticamente sarò lieto di riascoltare tutto. Le cavolate che si è detto. No, ma che cavolo, sempre noi poi diciamo sempre. Vabbè, ma poi se un toscano no gli cavi la voglia di dire tutte queste bischerate le cose, okay? Non ci rimane niente, ma perché ritorni anche giovedì se continui così. Se sei qui un motivo c'è, Certo. Grazie ancora. Vi ringrazio a tutti, grazie a Enzo. Il grande presidente di Bombolo. Al Bernardini, grazie alla gentile signorina bionda bellissima. Grazie. Che mi ha fatto da scolara. da maestra. Enzo, e noi allora ci abbiamo anche da salutare qualcuno. Bravo, sì, Alessandra, Paolo. Ma io perché mi scordo di fare le cose quando e poi si spenge il Manuela, un amico che ci ha salutato che si chiama Besnik, Lorenzo, Simone, Federico, Silvia. Ciao a tutti, insomma. Ciao a tutti, ricordiamo la domenica di carnevale anche per vedere Brunero che guida sfila la mascherata di Bombolo, diciamolo. Sì, da sì. Prima del 1976. E allora appuntamento a giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino, ospite speciale Brunero e alla parte tecnica Simone. One, one, one.